di via. C'è nessuno? C'è il canale 10? Aspetta, Giulio. Mastro Giulio a Bisese. Ui, Lugariello. No, te ne mettere, che c'è più fresco, io non ne ho. Poi il mangagliotti tocca a terra, è un casino, si spunta il cornicione. Vabbè, metti a caldare là sotto, già no, il cornicione non le fa niente. Ti stai vestendo? Io sono entrato a fare un trabacco e quindi niente. Si è messo asciutto un po' qua, poi vediamo cosa fare dopo. Un troppo di lavi tu. Se eravate in tutti, mettete di lavi tu. Infatti due assi frequente con i docci. Io me l'ho fatta poco fa. Me la faccio la mattina prima di uscire. La notte non me ne faccio. La mattina. E poi quando rientro dal lavoro, e basta. Già va bene, adesso c'è fresco, quindi non sudi nemmeno. Vabbè, vedi, ti dai, già sono qua. Stavo cercando a Giulio. KK. Ma perché uscire devi? Caccia! Ah, adesso detto a caccia, che ora è a caccia? Poi non è neanche giovedì oggi. Bene, bene. Come sta la vecchia? Si è ripresa? Ia ia oh! Ehi dai, piano piano. Vabbè, camminare deve camminare. L'importante è che faccia la... che tenga a bada Gerusalemme cosa, no? E se controllare le cose, ma niente ne no. Non capitano lui. Ah beh, già è grande. Lei lo sa che deve rimanere a regime, deve fare la dieta ferrea. Poi se ne approfitta, allora vuol dire che non ci tiene la salute. Allora, mangiare alluminio, capito? Mangiare molto alluminio. Alluminio. Avviti dal microfono, ma c'è te giuruda. Mettitela in bocca quel microfono, che è così sì che ti sento, ma se ti allontani non sei come il microfono di tavola. Ah, già va bene. Qualcosa bisogna fare. Ma il segnale è buono, intanto vedi che siamo noi. Quando arrivi qua a Carbonati, che sono quello più lontano di tutti, cosa? Arrivi a... ali punti, da Giulio, poi gli altri ce li hai tutti lì, Gio Maria, Tore, Bacchisio, Marino, forse da Marino non arrivi ottavo, Marco, Gianni, insomma quelli siamo noi, quindi a un certo punto non te ne fotti nulla, però se entra qualcuno da fuori non lo senti, è brutto. Ma com'è se Baracchini è un caterpillar? Non si è incendiato ancora. Se si incendia nel Bunimura 2.20. Allora, 2.20, capito? Così raffredda prima che arrivi un bel evento. Non te l'aveva dato Stefano, quello non c'ero io. No, già c'è roba buona Stefano. Ne ha un sacco di baracchini vintage. Ne avevo chiesto io uno base, però ne ha uno, ma no, dice che è mezzo sordo, quindi non me lo va. Capito, per mettere in campagna, perché il DAC è troppo grande, poi si rovina, il DAC io ci tengo troppo, è troppo grande, grazie a voi metto la scrivania su roba Edo, avrei preferito un 220 piccolino, più piccolo e basta, no, lui è un, già lo conosce il DAC, non ce n'è, mi uni 3 HF, non è nato all'altro, ma fare via il DAC è troppo grande, grande, più grande del Galaxy, è il doppio del Galaxy come altezza, come grandezza ancora più grande, larghezza, altezza, è troppo grande, pare un mobile, base. E quindi l'ho staccato, capito, l'ho messo a parte, infatti ho riattaccato il K, almeno a fare due chiacchiere, sennò alla fine si metteva in coso, capito, vanno in blocco queste radio, poi un casino, no, come fai a fare il prezzo, prima di vedere il lavoro, cosa ci vuole il cavo, antenne, dove sei, dove devi piazzare, tutto, e allora da lì fai il preventivo, in base a quello, il lavoro, si fa il preventivo, gli antennisti sono così, noi grandi e... A voi, se il posto è incasinato, li vediamo a Tabassona e esci di sotto. Ma grazie sia lo Camposanto, mi ha messo, lo mandano all'otto, finta di lui, e chi mi si può entrare gratis? E lui, Lo so come sei tu, non sei mai fermo, nella giornata già te la fai sempre. Va bene, allora buona passeggiata, buon tutto, io rimango in ascolto, se entra qualcuno, se no, è tutto tutto. È una bella mia televisione. Ciao Lu, saluta mia Marina e ci sentiamo, ok? Ehi Alugarie, già hai acceso qua, non c'è problema. Ciao.